Da voce del Vangelo. I tuoi figli sceglieranno bene se. Hai paura che i tuoi figli non seguiranno il tuo esempio di fedeltà al Signore e di impegno nella Chiesa? Hai visto nella vita di altri delle esperienze che ti fanno tremare? Un motivo per questo fallimento ci è. Molti genitori credenti pensano che i loro figli automaticamente si innamoreranno del Signore, della Bibbia, delle riunioni della Chiesa, e non fanno molto per aiutarli a riuscire bene. Ma si sbagliano. Quello che i nostri figli riveleranno automaticamente saranno la noia durante i culti e il desiderio di evitare tutto ciò che è spirituale. A meno che la nostra casa non sia un laboratorio in cui essi possano fare i loro esperimenti e vagliare le loro idee, in cui possano sviluppare principi e convinzioni, confrontandoli con la fede e la coerenza dei genitori. Nella loro casa essi devono poter essere liberi di pensare, parlare, discutere, vagliare. Nella loro casa devono sapere che non saranno mai respinti o criticati con cattiveria, ma saranno aiutati a sviluppare buon senso, equilibrio e la sapienza che viene da Dio. In questo laboratorio l'ingrediente spontaneo e naturale di ogni esperimento saranno il timore e la parola di Dio, il rispetto reciproco e l'amore. Chi si forma in un laboratorio così probabilmente ci si troverà così bene che vorrà costruirsene uno personale in cui lavorare tutta la vita.